2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 21 marzo 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. Come sempre vi ricordo che questa puntata, come del resto tutte le puntate del nostro programma, sarà disponibile sul nostro sito internet a partire da lunedì pomeriggio. Trovate online tutte le informazioni e trovate anche le informazioni per abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo avete la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione, quindi avete la possibilità di riascoltare il nostro programma quando preferite. In questa puntata parleremo ampiamente di cinema digitale, una puntata estremamente interessante non solo per chi è appassionato di cinema, ma in generale per chi è appassionato di tecnologia o anche solo che per chi è curioso di sapere come si sta trasformando il grande schermo. Parliamo spesso di TV, oggi invece parliamo di grande schermo, del cinema vero e proprio. Ma iniziamo con una notizia che riguarda i domini internet. Quando parliamo di domini di primo livello facciamo riferimento ai più famosi, ai più noti, ad esempio quello nazionale per l'Italia.it oppure quello internazionale, il più famoso in assoluto, .com. Beh, negli ultimi anni ci sono state parecchie novità, il lancio di altri domini internet, l'ultimo che arriverà martedì prossimo, quindi a partire dal 24 marzo sarà attivo e sarà attivabile anche il .tel. Saluto Claudio Corbetta, che è amministratore delegato di Register.it. Bentornato a 2024, Corbetta. Grazie, buongiorno a lei agli ascoltatori. Tra qualche giorno diventerà attivo il .tel. In che cosa consiste questa novità? Il .tel è l'ultimo nato nel mondo dei domini, è un dominio, diciamo, di carattere internazionale che sarà specializzato per dare la possibilità a private ed aziende di avere la propria pagina di contatti online. Quindi l'utilizzo consigliato è quello proprio anche fornito dall'operatore, dal registro, che poi lo metterà a disposizione tramite dei register, come appunto può essere register.it, una pagina gestita direttamente dai loro server che conterrà tutte le informazioni relative a come essere contattato e trovato in rete. Quindi potremo inserire il nostro numero di telefono, cellulare, piuttosto che l'email, piuttosto che come vogliamo essere contattati su Skype, Facebook, eccetera, eccetera. E questa pagina, diciamo, sarà standard e sarà molto semplice da compilare come pagina di contatto. Quindi digitando claudiocorbetta.tella, se io lo vorrò, metterò a disposizione sostanzialmente il mio modo di essere contattato. Quindi una sorta di pagina che fa parte di un grande elenco telefonico. Esattamente, quindi questa è proprio la specializzazione che si vuole dare per dare una connotazione particolare, una terminazione di dominio, dove, come lei diceva prima, oggi sono presenti più di 240 suffissi di dominio, ovviamente la maggior parte sono nazionali, ma anche a livello internazionale abbiamo alcune decine di terminazioni diverse. Per creare una specializzazione, quindi anche una motivazione seria per l'utilizzo, l'idea è quella di creare un grande elenco telefonico con il nome a dominio correlato. Per tenere attiva questa presenza online, grosso modo di che cosa stiamo parlando? Allora, con quello ovviamente poi dipenderà dal provider a cui si rivolge. Diciamo che con la Register IT il costo standard di un dominio, che poi comprende anche un'altra serie di servizi, è intorno ai 35 euro, e diciamo questo è possiamo dire un costo abbastanza standard di mercato, quindi parliamo con sicuramente meno di 50 euro la propria presenza online. Con una pagina che fondamentalmente assomiglia alla pagina dei contatti che noi abbiamo sulla rubrica, ci si può fare altro? Volendo comunque si può costruire anche un sito vero e proprio, anche se in realtà viene suggerito questo tipo di utilizzo per connotare: io ho un'azienda, ho il mio punto it che è molto conosciuto in Italia, piuttosto che punto com, che è il dominio riconosciuto come diciamo, il modo poi di accedere in internet, specializzo una mia pagina di contatto col punto tel. Ovviamente posso anche farci un sito, ma l'utilizzo consigliato è quello, diciamo, specialistico sulla terminazione.

corposi e tra l'altro anche molto costosi, ai quali chi partecipa a SMAU invece può assistere gratuitamente. Quindi si va, si ascoltano gli esperti di Gartner e poi magari si decide anche di comprare questi rapporti molto completi, molto complessi. Ce n'è uno che vi segnalo perché il futuro del CRM sarà molto diverso dal passato. Chi ha partecipato ha detto di aver trovato molto interesse in questo appuntamento. E poi ci sono anche quelli della School of Management del Politecnico di Milano, che sono un valido strumento per, anche in questo caso, piccole, piccolissime, medie imprese, per migliorare l'organizzazione, i processi ed essere poi in definitiva più competitive. Ad esempio, uno di quelli che mi piace ricordare è ottimizzare le decisioni con i sistemi di business intelligence. Quando si parla di business intelligence si pensa, alcuni pensano a sistemi complessi, molto difficili da implementare. In realtà poi si scopre che oramai questi strumenti, grazie alle moderne tecnologie, sono a disposizione anche di aziende molto piccole, con operatività limitata. Ma sostanzialmente, che cos'è la business intelligence? Un sistema grazie al quale la tecnologia ci fa capire che cosa sta succedendo all'interno della nostra azienda. Ne abbiamo parlato, 2024, sicuramente ne riparleremo, cercheremo di capire di che cosa si tratta. Beh, questi appuntamenti a SMAU sono un buon esempio e una buona opportunità per capire come utilizzare tutto ciò che è messo a disposizione dalla tecnologia per diventare più competitivi nel nostro mercato, ma soprattutto sui mercati internazionali. Allora, SMAU, prossima settimana, 25 e 26 di marzo. Di nuovo insieme a 2024 in questa parte della nostra puntata dedicata al cinema digitale. Vi ricordo che 2024 va in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30. Naturalmente ci seguite, ci potete seguire anche online. Tutte le informazioni per riascoltarci sul nostro sito internet sono su www.radio24.it e come sempre vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo potete scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Più tardi parleremo anche dell'arrivo del nuovo Internet Explorer numero 8, ma adesso, come dicevo, la nostra puntata si sta dedicando all'evoluzione tecnologica del cinema. Io ho parlato della trasformazione che in parte alcuni cinema hanno subito. Ne stiamo parlando con Gianfranco Giardina, il nostro esperto di audio e video digitale, direttore di AF Digitale, e con Laura Fumagalli, che si occupa della programmazione all'Arcadia Multiplex e fa parte di una famiglia con una lunga tradizione nel mondo del cinema. Laura, abbiamo già spiegato molte cose di questa trasformazione, di questa rivoluzione tecnologica, ma poi oltre alle sale come le vostre, adeguate a queste nuove tecnologie, ai film digitali, la materia prima esiste, cioè i film ci sono? Diciamo che al di là delle difficoltà iniziali che abbiamo avuto appunto nei primi anni, quando ancora Arcadia era l'unico cinema dotato di tecnologia digitale in Italia, poi man mano, diciamo, con le altre sale, facendo una richiesta, diciamo, unanime da parte degli esercenti attrezzati con il digitale, il flusso è diventato più costante. Infatti, diciamo che tutti i film distribuiti dalle major di Hollywood vengono distribuiti sia in pellicola che in formato digitale. Le case di distribuzione, i film italiani ovviamente rimangono per il 100% distribuiti in pellicola. Quindi noi non ci siamo ancora adeguati a questa rivoluzione. L'unico film italiano che era stato distribuito in digitale è stato Pinocchio di Roberto Benigni nel lontano 2002. Un pioniere, diciamo. Sì. Possiamo pensare, adesso qua mi spingo un po' in avanti, poi torniamo indietro. Possiamo pensare, Laura, ad una distribuzione ancora più

certi livelli di coinvolgimento. Se ne parla, si sono visti dei prototipi, ma comunque il punto è che il 3D è bello proprio perché dà un'immagine tridimensionale, però lo schermo deve essere grande, perché anche se ho delle formiche tridimensionali che in una scatolina lontana mi escono e le vedo in 3D, insomma, possono non essere assolutamente interessanti. E è quello che dicevamo prima, il cinema scatta sempre avanti, il cinema deve sempre fornire, per legittimare anche la propria esistenza, no? Uno spettacolo che sia ancora più coinvolgente, quindi dal frame 4 terzi si è passato al Vista Vision 1.66:1, poi al CinemaScope, ai grandi Colossal, al 70 mm, insomma tutte le innovazioni sono arrivate dal cinema. Questa è un'altra innovazione, un altro passo avanti. Noi abbiamo fatto un'inchiesta sul campo, abbiamo fermato la gente per strada, l'abbiamo fermata fuori dalla sala cinematografica proprio all'Arcadia, subito dopo la proiezione di un film, subito prima e subito dopo la proiezione di un film in 3D, per chiedere cosa ne aveva spinti lì e soprattutto che effetto ne aveva ricevuto. Ecco, il 3D, come dicevamo prima, è molto facile da spiegare se si vede, perché si vede in maniera sì, netta, è evidente, è una cosa terribilmente coinvolgente, così chiara che addirittura il suo vero vantaggio, no, è il fatto che si propaga in maniera virale, no? La conoscenza del 3D si propaga in maniera virale tra tutti gli appassionati. Abbiamo fatto appunto su AF Digitale questa inchiesta che ha dimostrato che il 3D è più popolare del Blu-ray, in buona sostanza. Quindi anche se le sale che fanno 3D al cinema sono ancora poche, anche se a livello consumer il 3D ancora dovrà venire, chissà quando arriverà, insomma, anche perché appena è stato forse fissato mezzo standard, ma ancora siamo ancora un po' ballerini. Ecco, malgrado ciò, e mentre il Blu-ray c'è ormai da qualche anno, il pubblico generico, diciamo, non la super appassionata, il pubblico generico manifesta più interesse verso la possibilità di uno spettacolo 3D che di uno spettacolo in alta definizione, semplice o comunque nei confronti del Blu-ray. E quindi questo sicuramente segna un grande cambiamento. È vero che è molto più facile fare 3D sui contenuti in computer graphics, perché basta dire al server che fa il rendering finale del film, invece di farlo con una videocamera virtuale sola, me ne metti due a distanza simile a quelle degli occhi ed ecco che tutti gli oggetti assumono un effetto tridimensionale. Più complesso è fare delle produzioni, diciamo, live action in 3D, perché vanno girate con due videocamere, eccetera, eccetera. Ecco, però si sta iniziando, perché i primi contenuti ci sono, i concerti li abbiamo visti, arrivano anche alcune fiction, quindi alcuni film, i documentari sicuramente. Da questo punto di vista, diciamo che questa tradizione del 3D è iniziata diversi anni fa nei cinema IMAX, quindi nelle sale IMAX che sono molto diffuse all'estero e non in Italia, o pochissimo in Italia, che su questo schermo gigantesco proiettavano due pellicole, ovviamente opportunamente sincronizzate, a 70 mm tutte e due, e facevano un effetto tridimensionale molto, molto coinvolgente, ma restava una cosa limitata a queste sale. Oggi col digitale il 3D si può fare in tutte le sale d'Italia. Potenzialmente. Io ringrazio i nostri ospiti e ringrazio Laura Fumagalli e anche la famiglia Fumagalli, insomma, per la passione che mette nel cinema. Magari ci risentiamo quando arriverà il 4K, tra mesi o anni? Mesi. Ah, quindi entro l'anno, ci stai dicendo? Sony, che è uno sicuramente dei pionieri per la tecnologia 4K, ha già presentato un proiettore digitale 4K. Avevamo fatto una presentazione presso la sede di Bellinzago Lombardo del nuovo proiettore digitale 4K. Ci arriveremo presto. Bene, grazie e buon lavoro, a presto. Grazie. E grazie anche a Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale, per essere stato con noi. Buon lavoro anche a te, Gianfranco. Grazie mille. In questa puntata di 2024, come vi ho anticipato all'inizio, parliamo anche dell'arrivo sul mercato del nuovo Internet Explorer. La nuova versione è la numero 8, come sempre accade quando esce sul mercato un nuovo software. Ci sono parecchie novità, in questo caso essendo un prodotto gratuito c'è anche la fortuna, si ha la fortuna di poter provare queste novità in maniera gratuita, quindi verificandole velocemente e rapidamente. Saluto Fabrizio Albergati, che è responsabile della divisione Windows in Microsoft Italia. Bentornato a 2024. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno anche a te. Quali sono le novità più importanti, quelle che saltano all'occhio di questo nuovo prodotto? Credo che la cosa che cambierà un po', e speriamo in positivo, il modo di lavorare degli italiani con Internet Explorer sono quelli che sono stati chiamati gli web slice e gli acceleratori, ovvero sia due modalità per velocizzare e molto il tempo che impieghiamo per realizzare una specifica task in internet, una specifica attività in internet. Quindi la prima ha una parola che tradotta in italiano significa fetta, quindi le fette del web, che cosa significa? Esatto, fette di web è una traduzione che potremmo anche utilizzare. Fondamentalmente è un modo molto rapido per accedere a delle aree di un sito web che ovviamente è stato opportunamente costruito per erogare questo servizio, che sono sempre aggiornate e che io posiziono di fatto sulla barra dei menu del mio Explorer e ho la possibilità di accedere a queste informazioni tutte le volte che cambiano, perché cambierà anche il colore della tab, no, di questa scheda, e quindi vedendo che cambia il colore per esempio della web slice che è stata realizzata da il Corriere della Sera su un particolare tipo di notizia, so che c'è stato qualche cosa di nuovo e quindi potrò andarlo a vedere. E devo dire che il nostro lavoro è stato proprio quello di trovare molti partner italiani che erogassero questi servizi. Ti cito alcuni dei più famosi, appunto il Corriere e la Gazzetta, che so che sono i miei concorrenti del Sole 24 Ore, ma sono anche in qualche modo colleghi. La Stampa, MTV, TGcom per parlare di siti di notizie, ma anche siti molto interessanti per quelle che sono le informazioni più specifiche per gli appassionati, per esempio il sito del Milan, stiamo realizzando anche per Ferrari il logo slice per Ferrari. E poi i partner che invece erogano servizi di vendita come Euronics o come Bo.it o Coin, per cui gli appartenenti al Club Coin vedranno tutte le novità, tutte le offerte loro dedicate, semplicemente perché il tab che contiene queste informazioni cambierà di colore, quindi potrò correre alla stagione dei saldi di Coin. L'altra novità invece qual è? Ma l'altra grande novità si chiama Accelerator, che in realtà è un modo nuovo di erogare dei servizi sul web, e ti faccio un esempio citando uno dei partner che sta realizzando appunto questo tipo di soluzione con noi, che è Seat Pagine Gialle. Se io sono su una pagina di una particolare notizia dove trovo un indirizzo o il nome di un hotel o il nome di un ristorante, mi basterà evidenziarlo, mi comparirà una doppia freccettina proprio di fianco al testo che ho evidenziato, portando il mouse su questa doppia finestrella, su questa doppia freccetta, si apre una finestrella con tutti i servizi accelerator che sono in qualche modo connessi a questa informazione. Per cui se andrò su Seat Pagine Gialle mi si aprirà automaticamente una finestra con il numero di telefono di quel particolare ristorante. Se andrò sul sito di Meteo.it, quindi sull'accelerator di Meteo.it, potrò vedere le condizioni meteo previste per quel particolare zona nei prossimi giorni. Bene, io ringrazio Fabrizio Albergati per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie, arrivederci. Vi ricordo che Internet Explorer numero 8 è disponibile da poche ore, potremmo dire da ieri, ed è interessante vedere, seguire questa lotta dei browser, potremmo così definirla, anche recentemente ne abbiamo parlato, per vedere chi riuscirà a guadagnare quote di mercato in questo settore. Negli ultimi anni abbiamo visto una fortissima crescita di Firefox della Mozilla Foundation, ed è indubbio che molte delle innovazioni negli ultimi tempi in fatto di software di navigazione siano state introdotte da Firefox, che è un ottimo software che vi consigliamo come sempre di provare. Ma naturalmente, visto che abbiamo detto che questi sono software gratuiti, beh, provate anche il nuovo Internet Explorer, provate anche Google Chrome, provate Safari di Apple e provate anche Opera, molto interessante per alcune novità. Ci fermiamo qui, questo è tutto per la nostra puntata. 2024 torna la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Anche questa puntata la troverete sul nostro sito internet, quindi ci potrete riascoltare quando preferite scaricandola da www.radio24.it. Grazie anche a Luigi Borghi in redazione, noi ci risentiamo tra 7 giorni. Buon ascolto con i programmi di Radio 24. You are disconnected.